Torniamo al commento con gli appunti di Don Marco Fabbri. Entriamo nel terzo capitolo della Genesi, che è quello che descrive proprio fin dal primo versetto la caduta di Adamo ed Eva. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. La prima cosa che analizza Don Marco qui è questa figura del serpente. Ora voi su queste dispense che io vi ho dato troverete tutto il discorso completo. Nella figura del serpente, noi alla luce di tutta la scrittura fino all'Apocalisse vediamo un po' addensati vari significati. Comunque, chi è il serpente? Il serpente è quello che l'Apocalisse descrive come l'enorme drago rosso, Apocalisse 12.3, Apocalisse 12.9, il grande drago, di nuovo, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, il serpente antico, letteralmente serpente del principio. Qui l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, si richiama al principio, alla Genesi, è evidente, anche perché la Genesi dagli ebrei era denominata come con il primo nome, la prima parola, Bereshit, in principio. Quindi era proprio un modo di Giovanni di richiamarsi a quel serpente. Giovanni, tra l'altro, nel Vangelo, Giovanni 8,44, parlando del diavolo, Gesù parlando del diavolo dice: egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, è menzognero e padre della menzogna. Anche qui è stato omicida fin da principio. Di nuovo Giovanni invita a leggere la Genesi, perché dicendo da principio rimanda a Genesi 1:1, il primo versetto di Genesi. Allora, poi ecco, può essere interessante capire perché si chiama drago quello che viene chiamato serpente all'inizio. C'è un bel gioco di parole, perché c'era una razza di serpenti che si chiamava in greco Dracon, che significa serpente senza palpebre. E allora, serpente, Dracon, drago. Poi è spiegato meglio qui, ma insomma è più una curiosità che altro. Anche il libro di Giobbe parla parla di Satana, lo chiama Satana, che va a tentare l'uomo, va a tentare Giobbe. E anche Satana lì appare tra i personaggi, diciamo, del mondo celeste, del mondo spirituale. Quelli che vengono chiamati figli di Dio, cioè sono gli angeli. Lui va con i figli di Dio, da Dio, quindi anche lui è parte del mondo spirituale, però senz'altro distinto dagli angeli. Ed è appunto una figura che è ostile all'uomo. Allora, mettendo insieme un po' tutti gli elementi e dati che possiamo raccogliere su Satana, sul diavolo, sul drago rosso dell'Apocalisse, senz'altro, ecco, tutto questo ci dà l'idea di chi è il serpente di Genesi, anche se in Genesi ancora è presentato un po' come un personaggio così, quasi fiabesco, dice Don Marco, ma in lui dobbiamo leggere, ecco, tutto quello che poi la scrittura ci dice. E è molto interessante già una prima notazione, dice Don Marco, in tutto il capitolo, quando si parla di Dio, viene designato come il Signore Dio, Yahweh Elohim. Lo chiama così il narratore, anche gli altri personaggi in precedenza l'hanno chiamato così nel capitolo 2. Invece quando il serpente nomina Dio, lo chiama semplicemente Elohim, con il nome comune, che denota come una conoscenza di Dio comune, non quella personale che è significata dal chiamarlo per nome. E allora il serpente dice, infatti, Beh, qui nella traduzione della CEI in realtà il verso 3.1 si è perso questo, perché dice: il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. In realtà sarebbe che il Signore Dio aveva fatto. E disse alla donna il serpente: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Quindi ecco, lui si riferisce così a Dio. E la donna un po' abbocca, perché sembra, come dire, anche lei risponde chiamando il Signore semplicemente Dio. Dice la donna: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. E quindi c'è già in questa prima parte del dialogo il serpente usa un'ambiguità dell'ebraico che si dice nello stesso modo: non potete mangiare di nessun albero, oppure non potete mangiare di tutti gli alberi. Comunque, al di là un po' del gioco di parole, evidentemente lui pone la questione sul limite posto da Dio, mentre Dio aveva detto mangiate pure di tutto. Lui dice: è vero che non potete mangiare di niente. E quindi già spinge la donna a riflettere sul comando di Dio come un divieto, come un limite. E la donna, che comunque risponde, dice dice appunto no, non dobbiamo mangiare solo dell'albero che sta in mezzo al giardino. A questo punto il serpente si pone direttamente, apertamente contro Dio. Disse alla donna: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ecco, qui, versetti 4 e 5, entriamo nel merito di due questioni, in fondo le più importanti, le fondamentali. Cosa significhi mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? E poi che cosa sia la conseguenza? Non morirete affatto, dice il serpente, quindi la morte. Allora, riguardo alla prima cosa, che cosa significa mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Potremmo abbozzare vari significati. Io salterò alcune cose di quelle che dice Don Marco, perché altrimenti non abbiamo tempo. Diciamo, un significato è quello di conoscerete, possibilità di conoscere la differenza tra bene e male, la differenza che c'è tra bene e male. E un significato più insidioso che il serpente vuole insinuare è però questo: conoscerete il bene e il male per esperienza. Se mangerete, conoscerete il bene e il male, non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Addirittura, oltre a dire voi facendo esperienza, solo se fai esperienza capisci davvero cos'è il bene e il male, addirittura il serpente insinua che Dio stesso faccia questa esperienza, diventereste come Dio, conoscendo che Dio stesso in fondo non sia totalmente buono, ma che Lui stesso, come dire, conosca per esperienza anche il male. E un ulteriore significato è quello di conoscereste il bene e il male, nel senso di sareste origine voi stessi del bene e del male, della differenza tra il bene e il male. Sareste capaci di stabilire voi stessi la differenza tra il bene e il male. Qui c'è, sono tre significati: il semplice conoscere la differenza tra bene e male, oppure conoscerla sperimentando, o diventare addirittura capaci di stabilire voi stessi la differenza tra il bene e il male. In realtà sono tre significati che sono tutti e tre veri. E E la cosa forse più insidiosa di tutto questo è il porre da parte del serpente il sospetto su Dio stesso. E sia nel senso che diventereste come Dio, che in lui in realtà conosce per esperienza anche il male, mangia dell'albero in un certo senso, anche Dio. E sospetto quindi sulla non completa bontà di Dio. E poi un sospetto sull'intenzione di Dio nel dare il comando ad Adamo ed Eva. Dio vi vuole tenere inferiori a lui, vuole che non siate come lui, non vuole che diventiate come lui. E ecco, questo cosa implica? Cosa implicherebbe? Che secondo il serpente, quando mangiassero dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'uomo e la donna potrebbero conoscere davvero il bene e il male e sostituirsi a Dio come fonte della differenza tra il bene e il male. In morale potremmo dire che il serpente insinua che la morale che Dio dà all'uomo è arbitraria. È arbitraria, non sarebbe basata né sul fatto che Dio è totalmente buono e quindi lui può dire quello che è totalmente, che è veramente buono, perché Dio stesso farebbe esperienza del male, quindi, e non sarebbe neppure una morale, sarebbe arbitraria anche perché non radicata nella natura dell'uomo e quindi ciò che è veramente buono per l'uomo. Ma perché? Perché se invece l'uomo ne facesse esperienza, secondo il serpente, addirittura sarebbe una crescita per lui, potrebbe diventare lui stesso fonte della morale. Quindi la morale in realtà non è una guida per lui, lui stesso è capace di diventare guida di se stesso. Ecco, invece... l'impostazione corretta è quella che esiste una teonomia della morale, cioè la morale è dettata da Dio, che è fonte della morale in quanto totalmente, sommamente buono, lui, e al tempo stesso non è arbitraria, non è arbitraria, né imposta con la forza per tenere l'uomo soggiogato, perché invece rispetta la natura con cui Dio stesso ha costituito l'uomo. Quindi c'è proprio nel discorso del serpente una profondissima perversione di tutto il rapporto dell'uomo con Dio e anche della verità dell'uomo, di chi è l'uomo, del bene per l'uomo. Bene, ecco, qui c'è diciamo il nocciolo poi del peccato originale. Giovanni Paolo II, nelle sue catechesi sul peccato originale nell'86, dico una cosa così per sintetizzare un po' quello che abbiamo detto, dice: l'uomo vuole vivere in modo autonomo, indipendente dal creatore, anzi, egli vuole essere colui che determina ciò che è bene e ciò che è male, rifiutando la propria natura umana come natura creaturale, ed ergendosi come arbitro unico del suo destino. Con parole invece di Don Giorgio, l'uomo che è fatto per essere ramo, collegato a un tronco, vuole essere lui stesso tronco, fonte lui stesso, non più in relazione, non più legato in relazione vitale con Dio, ma autonomo, autosufficiente, vuole essere lui padrone assoluto di se stesso. E ecco, per quanto riguarda invece il significato del morire come conseguenza del mangiare dell'albero, allora diciamo Don Marco fa un discorso molto molto bello, molto interessante, e innanzitutto un senso che sembra evidente è quello di morte corporale, morte corporale. Il seguito del racconto mostra però che l'uomo e la donna non muoiono immediatamente dopo aver mangiato. non muoiono immediatamente dopo. Comunque, se ricordiamo che nel giardino esiste anche l'albero della vita, quell'albero che nell'intento del racconto è se mangiato con continuità permette di sottrarsi alla morte, allora il morire effettivamente sarà una conseguenza del peccato, perché l'uomo e la donna non avranno più accesso al giardino, saranno esclusi dal giardino dove c'è l'albero della vita. Però vale la pena effettivamente riflettere più a fondo sul senso del morire, perché non possiamo credere che, diciamo, abbia ragione il serpente nel dire no, non morirete affatto, non morirete affatto. C'è un senso di morte invece che ci permette di capire che immediatamente, appena mangiano, muoiono, al di là del fatto che poi moriranno anche corporalmente. E qual è questo senso della morte? È il senso che l'uomo e la donna nel giardino erano anche in una relazione con Dio che era sicuramente parte e parte importante della vita dell'uomo, come descritta dal racconto di Genesi. Dio che passeggia nel giardino, Dio con il quale si era una familiarità piena. E anche questo, diciamo, possiamo distinguere diversi gradi di vita, no? Dalla vita vegetativa alla vita sensitiva, alla vita razionale, e poi addirittura l'uomo per la sua razionalità è in grado di essere in relazione, in rapporto con Dio stesso. Ecco, questo che è il contenuto, il grado più alto, più profondo della vita umana, effettivamente questo viene perso in conseguenza del peccato. Vi leggo un attimo quello che dice Don Marco. Interpretare il termine vita in modo analogico, cioè distinguendo diversi gradi di vita, è senz'altro lecito in base al testo di Genesi. Il testo, anzi, esige questa interpretazione, sia perché è evidente che non può avere ragione il serpente nel dire non morirete affatto, e di fatto non perdono immediatamente la vita del corpo. Per questo non è questo il senso principale che il testo dà al morire, quello di perdere la vita del corpo. Non la perdono in quel momento, perderanno molti anni più tardi, diciamo. Quindi è necessario interpretare in senso analogico il termine vita, e quindi anche il termine morte, anche perché ciò che immediatamente consegue al peccato è la cacciata dal giardino, cioè proprio la perdita del rapporto con Dio che lì era possibile. Quindi questo è immediato. Loro vengono cacciati dal giardino, moriranno molto più tardi, ma subito vengono cacciati dal giardino, cioè perdono, a pagina 12 delle dispense di Don Marco, del ridotto. Quindi lui dice, è questo, cioè la perdita del rapporto con Dio, il principale modo in cui il testo ci porta ad intendere il morire, cioè il modo più importante di vita che viene perso. La conseguenza del peccato non è solo la perdita del rapporto con Dio, anche altre cose si perdono, ma si tratta più che altro di conseguenze della perdita della relazione con Dio. Ok? Una perdita che sta nell'atto stesso che compie l'uomo e che compie la donna, diciamo, di non avere, di perdere la fiducia in Dio e di volere, di desiderare di essere da se stessi autonomi, autosufficienti, padroni di sé, senza relazione a Dio. Non ho bisogno di te, adesso faccio io. Ecco. Questo, diciamo, qui un po' la parte forse anche più, così, più importante e centrale. Cosa succede dopo? Succede che la donna vide, dopo quello che dice il serpente, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. c'è una bella descrizione del processo psicologico del peccato. La donna ammette il sospetto su Dio, che viene insinuato dal serpente, ma Dio non è veramente buono, lui vi vuole tenere sottomessi. Allora lei ammette questo sospetto, guarda l'albero e non lo guarda più sentendosi in relazione con Dio, guarda l'albero per quello che è, quindi la pare gradevole. Se perdi il contesto, se perdi la relazione con Dio, certe cose ti possono sembrare belle, buone, solo se sei in rapporto con Dio capisci che certe non sono buone, certe altre sì. Il bene, quello è desiderabile, fa astrazione la donna da ciò che Dio ha chiesto, cioè dal contesto in cui quel bene risulta disordinato. Dimenticato Dio, quel bene appare desiderabile, la donna decide di mangiarne. Quindi, dice Don Marco, qui c'è lo specchio di ogni peccato, io direi di molti peccati. Non c'è l'intenzione di andare apertamente contro Dio. La Genesi non attribuisce una tale malizia né alla donna né all'uomo. Non è che vogliono, si ribellano a Dio, no. Però lo escludono, se lo mettono alle spalle, il rapporto con Dio, guardano l'oggetto e dicono, ah, però boh, ah, vedi, e quindi decidono da sé. Allora si aprirono, versetto 7, gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ecco, si vede subito che quello che è successo è... Qui non c'è ancora stata la punizione di Dio, cioè immediatamente si è modificato qualcosa dentro l'uomo, nella psicologia stessa dell'uomo e della donna, e sorge la vergogna. Perché? Perché l'uomo vede qualcosa che prima non vedeva, la visione del corpo umano suscita adesso passioni che è difficile dominare, l'uomo ha perso il dominio di sé. La nudità suscita vergogna perché l'uomo avverte di poter essere trascinato dalle passioni, e avverte di poter essere fatto oggetto da parte dell'altro o dell'altra. Prima non esisteva questo disordine nelle passioni, quindi si vede subito che la rottura della relazione con Dio provoca una frattura nell'uomo, una rottura nell'uomo. Nell'uomo è che poi immediatamente è una frattura anche nel rapporto con la donna. Io non sono più capace di dominare me, vedo l'altro sotto una luce diversa e questo inquina, rende difficile la relazione uomo-donna. Poi questa frattura si propagherà anche al rapporto con il lavoro, come vedremo poi nella punizione di Dio, e al rapporto tra fratelli, Caino e Abele, nel capitolo 4. Ecco, arriviamo al momento in cui Dio viene nella brezza del mattino, è un'immagine molto bella che esprime la familiarità, la vicinanza che c'era tra Dio e l'uomo nello stato originario. Udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. L'uomo con sua moglie si nascose alla presenza del Signore Dio. Veramente, che triste, no? Che tristezza. L'uomo si nasconde davanti a Dio. Non è incapace di sostenere la presenza di Dio, mentre prima invece era la cosa senz'altro più bella. E Dio allora si rivolge ai protagonisti e comincia dall'uomo, poi passa alla donna e poi arriva al serpente. Molto interessante vedere che con l'uomo e con la donna Dio parla, chiede, dove sei? Chiede ad Adamo, rispose, ho udito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto, riprese, di nuovo chiede Dio all'uomo, chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato? La stessa cosa farà con la donna. Alla donna, il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Cioè, Dio dialoga con l'uomo e con la donna, invece con il serpente no. Al serpente dice, allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame, fra tutti. Cioè, c'è proprio a questa chiarissima differenza nel modo di rivolgersi di Dio all'uomo, alla donna, o al serpente, mostra che nonostante il peccato, Dio mantiene il rapporto con l'uomo e con la donna, lo mantiene, no? Invece il serpente non è nelle stesse condizioni dell'uomo e della donna rispetto a Dio. Il serpente, dice Don Marco, non ha voce, non gli si dà la parola, non dice niente il serpente, né ascolta la voce di Dio. Si manifesta così, nel racconto biblico, una condizione di inimicizia tra Dio e il serpente che è già permanente. Invece con l'uomo e con la donna no, tutt'altro, è un'altra cosa. Ecco, nonostante il peccato si vede che nell'uomo e nella donna la bontà originaria, non è perduta. E anche nel loro rapporto non si perde la bontà originaria. Dio e poi farà delle vesti di pelli all'uomo e alla donna per coprirsi, quindi vabbè, comunque la maledizione al serpente, per concludere il discorso sul serpente, alcuni diciamo, siccome si dice poiché tu hai fatto questo sii maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Alcuni lo interpretano come che la Bibbia qui voglia spiegare perché i serpenti strisciano invece di avere delle gambe. Cioè, invece no, non, all'autore non interessava spiegare questa cosa. Lo scopo del racconto invece è spiegare l'origine del male. L'origine del male che ha appunto per l'uomo ha origine dalla tentazione del serpente. Ed è quella che viene data al serpente, una vera e propria maledizione, che denota che esisteva già uno stato di inimicizia permanente nei confronti del serpente. E, bene, invece vediamo, ecco, dovremmo entrare un po' nella condanna all'uomo e alla donna, e, forse, beh, ci basta poco, perché in realtà un po' il nocciolo di quello che... Comunque, alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. E... cioè, da un lato la ragione dei dolori che accompagnano il parto, che sembrano assumere un valore di castigo, ma soprattutto c'è che il fatto che la donna, moglie anche, cerca il marito, cerca la propria realizzazione nel rapporto con il marito e tuttavia viene dominata. Cioè il disordine che si introduce nella donna è che cerca il fine ultimo nel proprio marito. Non è che il rapporto con il marito è cattivo, è cercare il fine ultimo in lui. Come? Ecco, poi l'altra cosa invece, ecco, riguardo all'uomo è più lunga il castigo che viene impartito all'uomo: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te, eccetera, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. E la punizione dell'uomo, diciamo il disordine nell'uomo, riguarda il lavoro. Il castigo è di essere frustrato nella sua prospettiva di dominare la terra con il proprio lavoro. Questo è il castigo, ma è il disordine che c'è nell'uomo invece è di mettere di nuovo il suo fine ultimo nel lavoro, nella capacità nel riuscire nel lavoro. E in questo, proprio in questo, tante volte sarà frustrato. È molto interessante vedere che c'è un gioco di parole. L'uomo, cioè, diciamo, si richiama al versetto della creazione dell'uomo dalla terra. L'uomo che era stato tratto dalla polvere, Adamà, qui si dice che ci ritornerà, ritornerai alla terra. Poi, ci siamo. Il Signore Dio disse allora, versetti, salto i versetti 22 e 24, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suo là da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire l'albero della vita, la via all'albero della vita. Allora, il versetto 22 è quello, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, adesso almeno che non mangi dell'albero della vita per vivere per sempre. È una frase ironica, evidentemente, infatti non è per niente vero che l'uomo sia diventato come Dio, né tantomeno che avesse appunto ragione il serpente nel dire che l'uomo sarebbe diventato come Dio. Il racconto dice, afferma tutt'altro, quindi una frase ironica. La conseguenza dell'aver mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male è che l'uomo viene escluso dal giardino perché non mangi più dell'albero della vita. Senz'altro qui l'intenzione dell'autore è di dirci che l'uomo poi dovrà morire, non avrà più quel privilegio accordato di prima di poter vivere per sempre. Gli resta, diciamo, da lavorare la terra, lavorerà la terra da cui sei stato tratto. E invece, dice Don Marco, non hanno grande interesse le immagini dei cherubini e della spada folgorante, probabilmente sono un po' immagini un po' di sapore mitico, mitologico. Bene, terminata qui l'esame, faremo la prossima volta un ultimo commento sull'interesse che ha per noi per il peccato originale, per la fine del peccato originale, e poi continuiamo.